Grazie. Buonasera. Cristian, forza, dai. Cioè, no, proprio oggi su sto tempo. Buonasera a tutti. Un attimo che mi sono un po' ingarbugliato. È un onore essere qui innanzitutto. E vorrei ringraziare anche, grazie Cristian, il pastore per questa opportunità. Che dirti? Gesù è vivo. Lo diciamo, lo cantiamo, lo proclamiamo, ce lo diciamo l'un l'altro. Ma la domanda che mi sono voluto porre io questa volta, che voglio passare anche a voi, è: quali sono le conseguenze pratiche che Gesù, il fatto che Gesù è il vivo, la verità che Gesù è vivo, deve avere nella mia vita? Ve lo dico in altri termini. Come il fatto che Gesù è vivo deve cambiare il mio modo di pensare e di agire oggi, ogni volta che io lo canto, ogni volta che lo proclamo, ogni volta che lo sento dire. E per poter fare questo, mi sono detto, devo andare più in profondità. Devo andare più in profondità nel capire che vuol dire che Gesù è vivo. Non devo accontentarmi di rimanere nella superficie, no? Perché il rischio è che questa parola, che questa frase anche, diventi solo un motto, diventi solo una frase che ci piace dirci, ma che non porta poi delle conseguenze nella nostra vita. Perciò ho deciso di andare molto più in profondità. Chi sta alla telecamera stasera? Antonio, so che ti fa impazzire, Antonio, scusa. Ho deciso di non andare, di non rimanere nella superficie, perché ho capito che non va bene rimanere nella superficie. Non va bene guardare le cose solo con uno sguardo superficiale. Sapete quando l'ho capito? L'ho capito 15 anni fa. 15 anni fa i miei genitori hanno comprato una casa al mare, a Santo Spirito. 15 anni fa si poteva fare questa cosa, oggi non si può fare più. E io non ci volevo proprio andare in questa casa al mare, ok? Cioè, i miei amici, io avevo 17 anni, 18 anni, mi ricordo bene bene. I miei amici, quelli pochi che avevo, sono tutti a Modugno, e poi a casa avevo il computer, avevo internet, avevo i videogiochi, non volevo andare a casa al mare, dovevo stare a fare là da solo. E quindi, alla fine, ho concluso con i miei genitori che sarei rimasto a Modugno. Ragazzi, adolescenti che siete qui, immagina, 3 mesi da solo a casa vostra. Con l'unica clausola che sono dovuto andare a pranzo a Santo Spirito ogni giorno a mangiare. Vabbè, è una cosa che si poteva fare, perché alla fine poi come dovevo mangiare io, no? Ovviamente io non facevo un granché a casa, ok? Perché anche quando non conoscevo Gesù ero un po'... Cioè, in interazioni sociali, per gli amici, non è che ero tutto questo qui, non è che facevo feste, come potete immaginare. Che faccio? Rimanere a casa, giocare al computer, alla PlayStation. Non veniva mai nessuno a casa perché c'era mia nonna che abitava giù. Quindi era un po' a sgamo. E quindi una sera arrivò il momento in cui cominciai ad avventurarmi nella cucina, no? Perché a pranzo devo dire, ma la sera avevo fame pure, no? Quindi mi ingegnavo in qualcosa. Cominciai a ingegnarmi in quelle classiche minestre in stile Pastore Mirko, no? Gli spaghetti col tonno, queste cose qua, no? La crudaiola. E arrivò il momento che dovevo fare la lavastoviglie. Ora, mi dicevo che ci vuole fare la lavastoviglie. È quello che avevo sempre pensato io, ed è vero effettivamente, che ci vuole fare la lavastoviglie. Così misi i piatti nella lavastoviglie, sapevo che si mettevano le pastiglie, no? E le cercai, queste pastiglie per la lavastoviglie. Non c'erano, non le trovavo. Non potevo chiedere ai miei genitori dove erano, perché se i miei genitori scoprivano che io mi cucinavo da solo, ah, una tragedia, cioè questo ragazzo l'abbiamo abbandonato, poi sono figlio unico, no? Quindi potete immaginare ancora di più. Perciò dovevo stare anche zitto, dovevo cucinare e fare questa cosa da solo. Non trovavo queste pastiglie, però trovai un flacone verde con su scritto detersivo per i piatti. Capite cosa voglio dire quando non mi sono a leggere in maniera superficiale le cose, no? Perché io dissi, ok, detersivo per i piatti, lì stanno i piatti, devo lavare, fatto. Mi ricordavo che erano pastiglie, però vabbè, dai, questo è lì, come le medicine, no? C'è quello con la sciroppo, quello, no? Quindi l'ho preso e l'ho messo dentro. Chiusi, va. Ok, finito. Avete capito, insomma, già, che quello era il detersivo per lavare i piatti a mano. Non avete mai provato a mettere quel detersivo nella lavastoviglie? Vi dico io quello... Quello che succede, l'ho scoperto 10 minuti dopo, quando io, no, poi sono andato nell'altra stanza, al computer, no, sono andato a fare le cose, poi sono tornato per bere l'acqua d'estate al frigorifero, quindi ho aperto il frigorifero, ho cominciato a bere l'acqua e mi sono girato un attimo verso la... Praticamente c'era una montagna di schiuma. La lavastoviglie era sparita, non c'era più. Ora ditemi voi come io potevo fare a togliere tutta quella schiuma dalla cucina. Cioè, non potevo prendere un sifone in cucina. Ho cominciato in tutti i modi, ho cominciato a prendere con le mani, no? A pezzi e a portarlo fuori. Poi mi sono accorto che ci voleva troppo, allora ho preso una conca, ho cominciato a mettere nella conca la schiuma, come se fosse una cosa, no? Allora, insomma, si è andata lì mezzanottata. Alla fine sono riuscito più o meno a togliere tutto e anche ho cercato un po' anche poi di scoprire come fare, cioè, poi ho chiesto ai miei genitori, ma per caso voi sapete dove sono le pastiglie? Sì, stavano lì, ah! Ok, anche poi nelle altre serate che ho usato la lavastoviglie, questa lavastoviglie produceva schiuma, per tutta l'estate ha prodotto schiuma, ok? Quindi è stato... insomma, questo è quello che accade, per farvi capire, quando si leggono le cose con superficialità, no? E noi non vogliamo fare questo, che non vogliamo riempire la vostra cucina di schiuma. Perciò, oggi ci soffermeremo a comprendere meglio come la verità che Gesù è vivo si applica nelle nostre vite, quali conseguenze porta poi nella pratica. Infatti il titolo di questo messaggio è un po' provocatorio. Gesù è vivo. E quindi? Perché è proprio questo che vogliamo capire, e lo faremo tramite le parole di Paolo, dell'Apostolo Paolo, in 1 Corinzi 15. Toccheremo diversi versi, ci faremo un bel viaggio, insomma, dal verso 12 al 28, e vabbè, noi leggeremo ora tutti insieme, ma li leggeremo mano a mano che li prenderemo. Ed è un capitolo abbastanza complesso, ok? Se lo leggete così a primo impatto si capisce poco, ma nasconde delle bellissime verità. Perché ho preso proprio quel capitolo? Per ciò che stava succedendo a Corinto. Facciamo un po' di contesto. Corinto era già una chiesa un po' problematica di suo, no? Se voi conoscete la lettera, le lettere, c'erano tanti problemi nella chiesa di Corinto. Ultimo, in ordine di tempo, in cui Paolo affronta, è il fatto che si cominciava a mettere in dubbio la risurrezione di Gesù. Perché? Perché ai Corinti, questa cosa proprio non piaceva. Per il loro trascorso, ok? Cioè, loro avevano loro erano un popolo pagano precedentemente, quindi erano molto condizionati da questa filosofia del dualismo. Che cosa dice il dualismo? Il dualismo dice che tutto ciò che è carne, tutto ciò che è materiale, è brutto, è malvagio. Tutto ciò che è spirito, è anima, è etereo, è bello. Quindi, per loro, già l'idea stessa di un Dio che sarà fatto carne era non facile da comprendere. In più, il fatto che era risorto, quindi aveva raggiunto un po' quello che per loro era la cosa buona, e si faceva di nuovo carne, era assurdo proprio. E ancora peggio era pensare che loro poi sarebbero risorti, pensare che c'è una resurrezione dei morti, era proprio impensabile per loro. Lì Paolo interviene, ne dice: ehi cari, state bene attenti, che se Gesù, che se i morti non risuscitano, Gesù non è risorto. E questo non è una cosa da niente, ma porta delle conseguenze. Quindi quello che faremo questa sera è prendere queste conseguenze, queste parole di Paolo, e portarle al positivo. Perché lui parla di che cosa accade se non è risorto, ma noi le portiamo a positivo e diremo che cosa accade, quali sono le conseguenze che Gesù è vivo, e da qui estrapoleremo delle conseguenze pratiche per la nostra vita, per il nostro modo di pensare e agire, direttamente dalle parole dell'Apostolo Paolo. Ci piace? Cominciamo subito con 1 Corinzi 15, 12, 19. Vi ripeto, prenderemo delle belle porzioni insieme, ma non vi preoccupate, le vedremo bene bene. Ora, se si predica che Cristo è resuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è resurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione, e vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri di tutti gli uomini. Qual è quindi la prima conseguenza che viene fuori del fatto che Gesù è vivo? Gesù è vivo, quindi tu sei salvato dai tuoi peccati. A te appartiene la vita eterna. E Paolo lo mette subito in chiaro. Ehi, se Gesù non fosse vivo, e inutile che qua state tutti a fare, no, non può essere la resurrezione, dualismo, destiny. Se Gesù non fosse vivo, tu, voi sareste ancora nei vostri peccati. Di conseguenza, non saresti salvato. E non possiamo sottolineare mai questa verità abbastanza. Mai. Perché? Da un lato abbiamo la parola di Dio che ci fa una testa a tanto. E ci dice che in Romani 3 non c'è nessun giusto, neppure uno, e che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. In Romani 14 tutto ciò che non viene da fede è peccato, e così via, e così via. Ma dall'altro lato c'è una società, c'è una cultura che ci insegna che basta essere buoni, che basta essere onesti, che basta essere... No, ma io non faccio male a nessuno, io non ho mai rubato. Cioè, questa mentalità che cosa fa? Non fa altro che rubare alla grandezza e alla maestosità e l'essere glorioso della morte e della resurrezione di Gesù Cristo. Perché? Perché alla fine poi, se basta essere onesti e buoni, ci possiamo salvare un po' da soli, no? A che serve che Gesù è morto? Se alla fine basta essere un po' onesti e buoni. A che serve che è risorto? Se basta che non faccio male a nessuno. E sapete, questa condizione, questo condizionamento arriva anche qui, arriva anche fra noi. E quando accade questo, cioè che cominciamo a sentirci un po' meno incapaci di poterci salvare e un po' più capaci, cominciamo a vivere la nostra vita non in relazione a quello che Gesù ha fatto già per noi, ma a quello che Gesù potrebbe ancora fare per noi. Quindi molto più importante diventa la bella casa che Gesù può darmi, la bella famiglia che Gesù può darmi, il bel lavoro che Gesù può darmi, no? E perché alla fine a che cosa serve credere in Gesù se non per le cose che può darmi, no? Che differenza c'è fra me e quello che non ci crede? Le cose che può darmi se ci dimentichiamo la nostra condizione, se ci dimentichiamo che se Gesù non è vivo siamo morti. E questo Paolo dice, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Questo verso ha cambiato la mia vita 3 anni fa, dopo che mi ero convertito. Perché anche quando mi ero convertito, per tanto tempo ho continuato a vivere Gesù per quello che poteva darmi. Io amavo la musica, no? E con la musica non avevo mai concluso niente, ok? Ma ora che avevo Gesù, avevo trovato il mio genio della lampada che potevo strofinare ed esaudiva i miei desideri. Ma quando mi sono fermato e ho compreso la mia condizione, cioè qual è la mia condizione, è il significato vero, il valore vero di ciò che Gesù ha fatto per me, a questo punto è cambiato tutto. Ho smesso di vivere Gesù con quell'attitudine di pretesa, no? Che poi porta anche a rabbia, rancore. Ho cominciato a vivere Gesù con un'attitudine di ringraziamento. E lì ho detto, ok Gesù, questa era la mia volontà per me. Ma tu mi hai dato tutto. Io voglio sapere qual è la tua volontà per me. Ma lì, vi assicuro, chi mi conosce lo sa, che sono cambiate tantissime cose. Perciò, ricordiamoci la cosa più importante. Se Gesù è vivo, tu sei salvato dai tuoi peccati, a te appartiene la vita eterna. Questo è una verità fondamentale. E di conseguenza, se Gesù non fosse vivo, non sarebbe così. Non c'è nulla che noi possiamo fare per fare questo. Andiamo avanti ancora. 1 Corinzi 15, 20, 28. Ma ora, questa parte è tosta, eh? ma ora Cristo è stato resuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno al suo turno. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre. Dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. Poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato. Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il figlio stesso, che sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Sembra un po' un scioglilingua, ok? Sembra l'arcivescovo di Costantinopoli. Però qui Paolo sta dando una notizia entusiasmante. In mezzo a questi versi che sono anche complessi. Non solo Gesù è risorto, ma è solo il primo di coloro che risorgeranno. Ne sapete chi altro risorgerà? Chi? Noi. La sua Chiesa. Per colpa di Adamo, dice Paolo, la nostra condizione è di morte, nel peccato. L'unica speranza? Gesù risorto, Gesù che è vivo. In lui saremo vivificati, dice Paolo. Questa parola, vivificati, in italiano non la usiamo molto. Perciò non rende molto quello che significa, perché non la usiamo, ma se andiamo a vederla nel suo significato originale, la parola zopoieo vuol dire resi vivi, riportati in vita. Quindi, tramite Adamo siamo morti nel peccato, tramite Gesù siamo riportati in vita, siamo resi vivi. Essere reso vivo ti fa subito capire che parti da una condizione di morte, perché sennò non puoi essere reso vivo. Ma ciascuno qui viene al suo turno. Quindi non subito, Cristo è la primizia, che vuol dire il primo. E allora quando? Alla sua venuta, dice Paolo, alla venuta di Gesù. Quindi Paolo ora sposta tutta l'attenzione sulla venuta di Gesù. E così anche faremo noi. Quindi la seconda conseguenza, e vi dico già, sono solo due le conseguenze, non perché le conseguenze siano solo due, sono tantissime, ma questa sera abbiamo modo di prenderne solo due, anche perché sono enormi. La seconda conseguenza è che Gesù è vivo e quindi possiamo vivere nella speranza della sua venuta. Ora, quando si parla della venuta di Gesù, la seconda venuta di Gesù, qualsiasi cosa possiamo dirci la sminuirebbe. Ma sicuramente quello che possiamo cercare di fare è capirla un po' più a fondo, andando ad avventurarci nel libro di Apocalisse. dove con una visione più estesa, Giovanni, l'autore, parla di ciò che accadrà negli ultimi tempi e della seconda venuta di Gesù, compresi i punti che abbiamo letto anche nella parte, nei versi precedenti. Perciò Apocalisse, lo sappiamo che è un libro difficile, però non è impossibile. Con un buon commentario, con un buon libro di teologia sistematica, ce ne sono in chiesa, in libreria, di buoni, è possibile andare oltre quel famoso terzo capitolo delle lettere e capire che cosa c'è oggi fino al 21. Cosa c'è oggi? Cosa c'è oltre fino al 21? È uno sforzo, ok? Però io vi assicuro, e credetemi, perché l'ho fatto, e ve lo dirò, che vi dischiude una prospettiva che non potreste, che non potremmo mai guadagnare altrimenti. Ci apre una visuale che non potremmo mai avere senza quel libro. Non vi nascondo, no, che io, il mio tempo, ho di solito per studiare, io faccio degli orari da ufficio, no? Quindi il mio tempo per studiare, siccome la sera quando torno non è cosa, sono la mattina presto. E quindi io mi metto a studiare, a leggere, a pregare, un po' il mio tempo, la bambina dorme, quando dorme. Quindi, e per varie mattine, per prepararmi a questa predica, ho studiato questo libro. E vi assicuro che anche se ho una matiz, io sono andato a lavoro volando. Perché quello che la prospettiva che può aprirvi questo libro è entusiasmante e ci fa vivere la nostra vita in maniera diversa. E vediamo quindi allora che cosa accade in questo libro. Dopo le famose sette lettere, no, alle sette chiese, fino al terzo capitolo, arriva il quarto capitolo, quello che è sempre più nuovo sulle Bibbie. No? Lì cosa accade? È scritto che ci saranno grandi tribolazioni. Perché? Il libro della vita, un libro che è nei cieli, e pensate, su questo libro è scritto, sono scritti i nomi di tutte le persone che Dio ha eletto a salvezza da prima della fondazione dei tempi. C'è scritto il mio nome e il tuo nome, i nomi di tutti coloro che sono salvati. Su quel libro verrà aperto. Chi può aprire soltanto questo libro? Cristo Gesù, chiamato il leone e l'agnello. Che bello questi due termini insieme, due opposti insieme. Questo libro ha sette sigilli, ok? Pensate ai sigilli come, avete presente quelle cose che si mettono con la cera rossa sulle lettere? Sono sette sigilli così, e verranno aperti ad uno, ad ognuno di questi sigilli ci sarà un evento catastrofico. Ok? I teologi stanno ancora cercando di capire se sono in contrasto. Se questi eventi stanno accadendo già o se accadranno tutti, non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che alla rottura del settimo sigillo sarà la volta delle sette trombe. Squilleranno sette trombe che determineranno sette catastrofi naturali. È un po' quello di cui parla Gesù in Matteo 24, avete presente? Che sappiamo? Sappiamo che questa settima tromba decreterà la fine dell'età presente. Lì avverrà la venuta dell'anticristo, la bestia lo chiama in Apocalisse, che con segni e prodigi chiamerà a sé tantissime persone, le sedurrà, è scritto. Perciò la terra, la popolazione della terra si spaccherà in due parti. Da un lato i seguaci dell'anticristo, dall'altro lato noi, i credenti, i seguaci dell'agnello. Al capitolo 16, la famosa ira di Dio verrà riversata sui seguaci dell'anticristo. Avete presente quando si parla, no? Come sarebbe se l'ira di Dio, no? Si riversasse? Ecco, è scritto nel capitolo 16. Nel capitolo 16, sotto forma di sette coppe, verrà riversata l'ira di Dio sui non credenti, sui seguaci dell'anticristo. Pensate che alla quinta coppa è scritto che le sofferenze per loro saranno così atroci che bestemmieranno il nome di Dio. Ancora di più lo odieranno anziché ravvedersi, e ancora di più seguiranno l'agnello. Ma cosa accadrà poi? Capitolo 19. Ne è scritto il fedele e il veritiero. Cristo Gesù, a cavallo, cavalcando un cavallo bianco, arriverà. È la sua venuta. E sapete cosa accadrà in quel momento? I credenti di tutte le epoche risorgeranno. Le loro anime si uniranno ai loro corpi, ma in forma diversa, in forma glorificata. E in quel momento, invece, i credenti che sono ancora sulla terra, alla sua venuta, verranno trasformati in un attimo in un corpo glorificato. Quindi, alla venuta di Gesù ci troveremo noi con tutti i credenti di tutte le epoche nei nostri corpi glorificati. E cosa farà questo Gesù? Sconfiggerà l'anticristo e non lo ucciderà, lo relegherà per 1000 anni in un abisso. Qui partirà il regno millenario, il famoso millennio. Sapete cosa accadrà in questi 1000 anni? Gesù Cristo regnerà in carne ed ossa su questa terra. E sapete chi regnerà con lui? Noi. Per questi 1000 anni è scritto che sarà un regno di pace e di giustizia. E noi regneremo con lui. Alla fine di questi 1000 anni, Satana, l'anticristo, verrà sciolto da quel legame che era stato messo e radunerà gli ultimi suoi seguaci per l'ultima rivolta. Ma è scritto che non comincerà nemmeno, perché un fuoco cadrà dal cielo e lo consumerà, e consumerà tutti quanti loro. Lì un grande trono bianco. È scritto che davanti a questo trono bianco i cieli e la terra fuggiranno alla sua presenza, non esisteranno più. Lì avverrà il giudizio finale. I non credenti verranno resuscitati e messi a giudizio secondo le loro opere. I credenti, la sua Chiesa, passerà all'eternità. Nuovi cieli e nuova terra, è scritto. perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi. Lì sarà la volta della Gerusalemme celeste. E c'è una descrizione fantastica della Gerusalemme celeste nel capitolo 20 e 21. Apocalisse finisce così, o quasi, nell'ultima parte. In Apocalisse 21, 3, 5. Egli abiterà con loro. Essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Capite mo' perché poi con la matiz... Ditemi voi quanto piccoli e insignificanti diventano i nostri problemi davanti a questa prospettiva. Quanto piccolo e insignificante diventa il nostro peccato davanti a questa prospettiva. Quanto piccolo e insignificante è quel senso di solitudine che hai, la tua lite con la tua migliore amica, la tua delusione amorosa, il tuo non poterti comprare l'ultimo cellulare o una casa. Ok, quanto piccolo e insignificante è quella difficoltà nella tua famiglia in questa prospettiva. E voglio andare oltre. In 1 Corinzi 15, 42, 44, un po' oltre, sono scritte le caratteristiche di un corpo glorificato, quel corpo con cui saremo risorti, ok? È scritto che non saremo più soggetti ai nostri limiti naturali, alla corruzione, alla malattia o alla morte. Non saremo più soggetti a questo. Non saremo più soggetti al peccato e alla tentazione del peccato. Ditemi voi, che cos'è davanti a questo? Quella malattia che non guarisce, quel disagio anche fisico, psicologico, che ci portiamo dietro, che è tutto per noi. Ma che cos'è in questa prospettiva? Che cos'è quel mutuo che non riusciamo a pagare? Quel lavoro che non riusciamo a trovare? Quella pensione che non sappiamo se avremo mai? Davanti alla certezza che regneremo con Cristo Gesù fianco a fianco e poi trascorreremo l'eternità con Lui. Che cos'è? Se Gesù non fosse vivo, tutto questo non avrebbe senso. Capite quello che la domanda che dicevo all'inizio? Gesù è vivo e quindi? Se Gesù non fosse vivo, non ci sarebbe questa prospettiva. Ma Gesù è vivo. Quindi possiamo vivere non solo con la certezza che siamo salvati e acquistati a caro prezzo, ma possiamo vivere nell'attesa di un'eternità in cui non ci sarà più né sofferenza, né dolore e né malattia. Chiesa, è con questa speranza che missionari lasciano la propria comoda casa nella propria chiesa rischiando in molti casi, perdendo la propria vita, quella del proprio figlio o della propria famiglia, della propria moglie, pur di portare Gesù dove non è ancora arrivato. Con questa speranza, uomini e donne di Dio scelgono un lavoro meno remunerativo, rinunciano ai sogni della propria carriera. Con questa speranza, ogni giorno, tanti cristiani vengono presi in giro, scherniti, nei propri luoghi di lavoro, nelle proprie scuole, perché vogliono portare Gesù al proprio compagno di banco, amico, collega. Si mettono contro la propria famiglia, contro il proprio padre, contro la propria madre. Rinunciano al sesso prima del matrimonio. Con questa speranza, cristiani vengono uccisi e torturati a pur di non rinnegare il nome di Cristo Gesù nei paesi dove la Chiesa è perseguitata. Ci alziamo in piedi. Voglio lasciarvi con un'ultima riflessione che a me sta molto a cuore. Ed io non so cosa stai vivendo oggi. Ma più avanti Paolo dice una frase, dice: non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ridiventate sobri per davvero e non peccate, perché alcuni non hanno la conoscenza di Dio. Lo dico a vostra vergogna. Ho sempre creduto che questo verso, le buone compagnie corrompono, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, ho sempre creduto che fosse un verso dell'Antico Testamento, dei Proverbi. Invece non è così, anche se è riconducibile ai Proverbi. Ma è una frase di un poeta greco, Menenandro. Queste sono le cose che solo Paolo sapeva fare, no? Mi ricordo un po' quando, sai, usiamo i versi delle canzoni per dirci le cose, no? Lui quello stava facendo. Questi poeti conoscevano molto bene questo Menenandro, quindi stava usando le sue parole. E quello che è successo ai Corinzi è quello che accade a noi ogni giorno. Persone che non hanno la conoscenza di Dio, fra virgolette, vuol dire persone che non conoscono Dio. Hanno rubato loro, così come rubano a noi questa verità. E quando ci rubano questa verità, quella prospettiva che abbiamo guadagnato oggi si restringe. E le circostanze della nostra vita diventano impossibili, ci schiacciano. Lì fuori tutto distruggerà la prospettiva dell'eternità. Non parlo solo di persone, non parlo solo dei discorsi che ci possiamo fare, no, io parlo dei film che possiamo vedere, della televisione, dei libri che leggiamo. Ci faranno focalizzare sul fatto che l'obiettivo primario di un uomo è quello di fare sesso con quante più donne possibili. Che guadagnare tanti soldi e diventare ricchi è tutto nella vita. Che avere una pensione è indispensabile. Che avere delle proprietà è indispensabile. Per questo Chiesa ci siamo noi. Per questo c'è quella persona che è accanto a te, che è alla tua destra, alla tua sinistra, avanti o dietro. Per ricordarci queste verità. Perché lo scoraggiamento arriva. L'incertezza arriva. È lì che ci siamo noi. Così che possiamo ricordarci anche l'un l'altro. Ehi, Gesù è vivo. Grazie a Lui sei salvato. E ogni tuo sacrificio non è vano. Perché siamo qui ad aspettarlo. Questa è la nostra vita. E quando arriverà, è scritto, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dei loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Amen. Vogliamo pregare. Padre, ti ringrazio perché la tua parola ci dà quella prospettiva, ci fa comprendere quello che noi siamo, quello che facciamo qui, ma soprattutto quello che tu hai fatto per noi. Gesù, tu sei vivo. Ed io prego che mai questa verità possa essere presa solo come una frase fatta, ma che ogni volta che la cantiamo, che la diciamo, che la leggiamo qui in grande, in questo locale, possiamo ricordarci e tu possa parlare al nostro cuore. E ricordarci la prospettiva in cui ci hai messo, che ci hai salvati, che siamo tuoi e non c'è nulla che potevamo fare per questo. E che ti aspettiamo. Ci aspettiamo che tu torni, che tu venga. E questa è la nostra speranza, è questa la speranza che ci fa vivere tutto ciò che viviamo, che ci fa guardare col sorriso anche alle sofferenze, anche alle malattie, anche alla povertà. Perché tu ci hai detto quello che ci aspetta. Ed è un destino accanto a te, dove non c'è più dolore, dove non c'è più sofferenza. Grazie, Padre. Grazie perché sei vivo. Amen.